18 e 30, accendo la radio, voglio solo ascoltare Giuseppe Davi, ma sento una voce che mi è familiare, non è Donato né Mauro. Karma quotidiano, lui è Sebastiano, lui è Barisoni, che anche a Natale ci rompe i coglioni. Senti, ho dimenticato di dirti una cosa! Oh! La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Salve, sono Loredana da Biceglie, vi seguo ogni puntata e volevo salutare le amiche dello Squirting Club di Molfetta. Sì. Mimo, quando vuoi venirci a trovare? Allora, ascolta, Lucia, io lo so che dopo finisci a dare a luce a Bill. Io al Papa devo insegnare cosa c'è scritto nella Bibbia. Il Papa non sa un cazzo! Che cazzo c'è scritto nella Bibbia? Il Papa deve andare a fare il prete di paese, si deve tirare via quella porcheria che c'è addosso, si deve mettere un pantalone, se c'è ancora l'uccello che gli tira, gli presento io una suora, alla quale gli tiro via la tonaca. Per me il Papa non raffigura nulla, sono io il Papa. Io mostrerò al Papa che sono io il Papa, sono io l'uomo sofferente, sono io che ho fatto del bene, non il Papa, soltanto perché si è messo una cacciata addosso. Lo sapete che fra 40-50 anni il Duomo di Milano verrà battuto? Lo sapete? Lo sapete che il cupolone verrà bruciato? Ricordi una cosa, di Donato De Valese se ne parlerà ancora per i prossimi 50 anni. Mi hanno bloccato Facebook, non posso entrare in Facebook, ho tentato 3 o 4 profili, mi mandano fuori, mi dicono lei è indesiderato. Io che cazzo ho fatto di male al mondo per non entrare in Facebook? Che cazzo di male ho fatto al mondo? Ci sono in Facebook, ci sono siti, pagine di Islam che lanciano diktat, non vengono mai cancellati quei luoghi, devi stare attento a scrivere, se scrivi negro con la R un po' apostrofata, tra parentesi, ti bloccano. Cruciare, ascolta me. Io ti dico una cosa, se tu ti libri di questo pezzente, la tua trasmissione salirà, anzi ti piccherà. Questo è un pezzente, questo ci distruggerà, questo è un nemico, questo è un diavolo. Io voglio sapere chi c'è dietro Parento, voglio saperlo, chi cazzo c'è dietro questo criminale. Parento è un criminale. Non dico, io non ho la voglia ebrei, ma questo è l'ultimo di criminale di tutti gli ebrei su questa terra. E Zuckerberg è un criminale! Bisogna abbattere Facebook, completamente distruggerlo. Facciamo entrare tutti gli ebrei in Facebook, tutti i cornuti comunisti, quelli di sinistra e tutti i cornuti come lui. Siamo qui! Siamo qui! Siamo qui per l'ultima puntata dell'anno, caro Donato, avanti tutta! Si resiste! Resisti di fronte all'attacco concentrico boldriniano e di Zuckerberg e di Facebook! Libertà di parola anche per quelli come Donato, libertà di parola! Libertà di cure! ragazzi, per andare un po' più terra terra, è il caso di dirlo, è il caso di dirlo, caro David, a Napoli anche quest'anno, perché non è la prima volta, hanno rubato, e come mai proprio a Napoli hanno rubato l'albero di Natale in Galleria Umberto I in meno di 24 ore. Cioè, avevano installato un albero di Natale in meno di 24 ore con la motosega, con una signora... con la motosega, con la motosega l'hanno tagliato, amico mio, con la motosega hanno rubato tutte le cose, le palle. Tu dici le palle. Che questo a Bolzano non succede, questo non succede, non succede, non succede. Non succede. A Roma fanno le cazzate con Spelacchio, però a Bolzano. Ma potevano no. venire a rubare quello di Roma, scusa, a questo punto, no? Sì, però amico mio, la questione è molto semplice. In altri posti non succede che in meno di 24 ore fanno fuori puntualmente, questa volta in meno di 24 ore. Diciamo la verità. Accade solo a Napoli, ma non c'è niente di strano, non è una cosa razzista, non è una cosa contro Napoli, però è la realtà, se uno non prende atto della realtà, non si va da nessuna parte. Allora, io ti vorrei elencare, caro David, perché adesso è il caso di farlo, direi, è il caso di farlo, i punti principali di un nuovo movimento politico. Molto volentieri. Siccome mi hanno tirato in ballo, come sai, per le prossime elezioni politiche, ma io ho... Quindi tu quando devi smettere di fare la radio? Perché si entra in par condicio praticamente da se si vota a marzo. David, forse non hai capito bene. Io non mi presento da nessuna parte. Quello... Io ho avuto conferme, invece oggi sono arrivato a Padova. Sì. Da poche ore ho incontrato alcuni esponenti di Forza Italia, di Padova, anche importanti, che mi hanno detto sì, è vero, Cruciani... Vabbè, queste sono le cazzate... Le probabilmente cazzate... dei nostri, l'abbiamo letto anche noi sui giornali. Ecco, sarà probabilmente dei nostri. Allora, e quindi, auguri, insomma, complimenti. Ecco, no, ma auguri un cazzo, perché non c'è onorevole Cruciani, non c'è nessuna candidatura, non c'è niente di niente, non ci sarà mai. Abbiamo smascherato il giochino. Non ci sarà mai. Allora, i punti programmatici di un ipotetico. Perché loro sostanzialmente, Cagnari con Forza Italia, capisco che tu gli copri la parte della Lega, cioè essendo tu dentro leghista, questo è il ragionamento che molti di Forza Italia qui a Padova mi hanno fatto. Sì. Servi al Cavaliere perché gli copri l'area di destra, pur candidato come indipendente in Forza Italia. Quindi mi pare, come dire, dal punto di vista una scelta. Certo, sei stato mascherato per 7 anni nel costruirti una propaganda attraverso questa radio. Le cose principali, i punti principali di un programma e di un movimento che si potrebbe chiamare Liberi e Armati. Liberi e armati, altro che liberi e uguali, movimento in cui si è candidata oggi la signora Boldrini, e non con grandissima sorpresa. Bisognerebbe fare un movimento e chiamarlo Liberi e Armati, bellissimo. Già, Liberi e Armati, stupendo, ho trovato questa cosa, anzi me l'ha detta a Longoni oggi. Liberi e armati, liberi armati. I programmi, i punti principali di questo programma potrebbero essere: legalizzare la prostituzione subito, abrogazione della legge Merlin domani mattina, basta una riga, riapertura dei bordelli, anche detti case chiuse o come cazzo volete, certo. Legalizzazione totale della prostituzione, cooperative di prostitute, imprenditori, singole partite IVA, quello che volete, tutto legalizzato e controllato dalle ASL con la salute delle prostitute, primo punto del programma. Secondo punto, ragazzi, ascoltatemi bene, legalizzazione delle droghe leggere, apertura di locali adibiti a fumerie, canne, ganja e affini, secondo punto fondamentale. Armi da fuoco, maggiore facilità di procurarsi un'arma da fuoco, legittima difesa dentro casa, non inizia nemmeno un'indagine se uno spara dentro casa, pratica risolta in 2 giorni, nessuno che deve pagare l'avvocato, eccetera eccetera, anche in caso di morte del ladro che era sul luogo di lavoro ed era nel corso di un lavoro di cui si prende i rischi. Altro punto fondamentale, Viagra e preservativi di Stato, più felici... Viagra e Viagra e preservativi di Stato, più felicità, Viagra, e meno malattie, preservativi per tutti. Diamo una mano alla salute italiana. Questo punto fondamentale. Questo può essere molto buono. Petizione popolare per lo spostamento del Vaticano in Francia. Non lo dico io, lo suggerisce l'esimio. Lo suggerisce. Lo vedi? Prendere o lasciare, ragazzi, prendere o lasciare. L'Italia può essere con me. Una parte d'Italia, non dico l'Italia, non sono Donato da Varese. Però una parte d'Italia può essere con me. spostamento del Vaticano in Francia, come suggerito dall'esimio professor Luttua, che ci siamo rotti i coglioni delle ingerenze del Vaticano. Basta trattati, basta accordi, andate ad Avignone e rompete i coglioni francesi. Togliere qualsiasi vitalizio ai politici, qualsiasi finanziamento a partiti e religioni, via tutto, scardinare da domani mattina anche retroattivamente. Ce la siamo presa nel culo diverse volte, non si capisce perché non se la possano prendere in quel posto politici e affini. Stop all'immigrazione clandestina, questa è una roba fondamentale. Blocco navale, blocco navale. Non ne deve entrare nemmeno uno, nemmeno uno, nemmeno blocco navale fisso, fisso lì. Ma che terrore, blocco navale fisso. Una cosa pazzesca. E poi così, dulcis in fundo, anche qua, però non si deroga, non si transige. Napoli occupata militarmente da uomini del Mossad. Beh, secondo me il Mossad in due giorni risolve la situazione a Napoli, amico mio. Due giorni. Scusa, ma tu immagina adesso la camorra, le famose, come si chiamano quelle cose che fanno adesso a Napoli, dai, che per cui accusano Comorra, il sindaco di Napoli accusa Comorra di essere l'istigatrice, la serie Comorra. Sì, no, le sparate, là, come si chiamano adesso? Non mi ricordo. Sì, le sparatorie tra ragazzini, hanno un nome in napoletano, non so come cazzo si chiamano. Comunque. Degli scugnetti, dici. Sì, queste robe qui, quanto ci mette il Mossad a risolvere? Dimmi la verità, amico mio, quanto ci mette? Dimmelo, no, dimmelo. Massimo, conoscendo il territorio, massimo i 5 giorni, il problema cinque giorni, è tutto risolto col Mossad. Perché non chiamiamo il Mossad a risolvere la situazione a Napoli, le sparatorie tra le gang? Chiamiamo il Mossad, amico mio. Onde che chiudete, cornuti? La Zanzara. Il posto giusto per il Vaticano è una città stupenda che si chiama Avignon, dove c'è un bellissimo ponte e c'è un palazzo papale in perfetto stato di conservazione. Cioè il Papa se ne va, se ne torni ad Avignone. In Francia il governo francese non divide la sovranità. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Poi c'era un altro piccolo punto del programma, ma non voglio svelare tutto, caro Parenzo, che potrebbe essere questo: togliere le quote rosa da ogni cosa, fuori dal Parlamento, questa cosa di mettere in lista un uomo, una donna, un uomo, no, una donna. Ma perché? Quello invece togliere le quote rosa da tutto, via, cancella. Questo è il mio programma, se ci stai bene, altrimenti fai un'altra cosa, stai con la Boldrini, con Liberi Uguali. Io faccio Liberi Armati, Liberi e Armati. Quella vuole fare Liberi Uguali? Noi facciamo Liberi e Armati. Guarda, mi verrebbe voglia, se non mi piacesse questo microfono, se non avessi, capito, se non mi piacesse fare questo mestiere, parlare col signor Lacorte, parlare col signor Ramelli, parlare col signor Longoni, parlare col signor Poli, col signor Mercù ogni giorno, e se non mi piacesse questa roba qui ogni giorno, io farei Liberi e Armati, bellissimo, col simbolo di una pistola, Liberi, grande provocazione, ma grande realtà, grande concretezza. Ragazzi, è questa la strada, è questo, ho detto 5 cose, tutte assolutamente fattibili, perché non fanno questo i politici il giorno dopo? Boldrini? No, ho capito, Boldrini, a proposito della Boldrini, oggi ha annunciato che si candida, ma lo sapevamo già. Lo sapevamo già. Vabbè, che possiamo mandare una voce da Boldrini per fare imbizzarrire qualcuno? Perché la gente, le persone, una parte degli italiani, ovviamente non tutti, per carità, appena sentono, ma non è importante quello che dice la Boldrini, appena sentono la voce della Boldrini, amico. Ma perché? È così, viene il sangue al cervello. A molte persone viene il sangue al cervello, non c'è niente da fare, è così. E bisogna prendere atto di questa cosa. Sentono la Boldrini e dicono automaticamente, anche se dice una cosa giusta. Anche qualora, appunto, anche se dice le cose giuste. Cioè, lo sai perché è così? Perché ha accumulato con queste stronzate delle donne e degli immigrati, eccetera, una serie di antipatie. Che sto facendo anch'io la fine della Boldrini. Beh, un po' sì, Boldrini della radio. Sì, esatto, sei la Boldrini della radio. Sono la Boldrini della radio. Sentiamo sta voce, avanti, oggi, quando annuncia Liberi e Uguali. Poi deve sottolineare, vedi che già ti fa rodere il culo. Il movimento si chiama Liberi e Uguali. Lei dice Liberi. Davvero io sono il Boldrini della radio. È un po' sì. Adesso qui mi interrogo un attimo. Per questo sono convinta che la formazione liberi è uguale, nel mio caso libere è uguale, perché si può declinare ed è bello questo nome, mi piace perché si può declinare. Ragazzi, restate con noi perché dopo la lunga interruzione che normalmente abbiamo e che purtroppo anche nel 2018 pare che non verrà cancellata, la lunga interruzione che abbiamo dalle 19.57 circa fino alle 19.21, a Parenzo serve per pisciare, cagare, parlare con i suoi amici del PD e con altra gente della 7, tutta una serie di cose che servono a Parenzo. A noi invece non ce ne frega un cazzo e vorremmo proseguire tranquillamente questa trasmissione. Purtroppo non ci è consentito, comunque va bene così. Uso questo quarto d'ora per vedere cosa fa i miei tre figli che ho chiuso, vabbè, ma, pare, ma chi se ne frega cioè, no, ma oggi questo è così figli, ma oggi è così, così. Generalmente se no si uso questi 20 minuti a disposizione per fare i cazzi tuoi, va bene, d'accordo, perché esatto, sì, sì, allora c'è una cosa che vi voglio far ascoltare, che è quella, sì, tra di nuovo la Rosina e il marito. Io non ne posso più. No, ma la Rosina, io adesso voglio dire, ma la Rosina adesso festeggerà il Natale o andrà ospite per le trasmissioni natalizie col è forcone? È andata di nuovo col forcone, di nuovo con il forcone, a credo dalla vostra parte. Vabbè, ma dalla vostra parte. Ci avrà un contratto. Dai, non è possibile. Si scontra con Carabue, vai. Walter Ruffini ha mille ragioni. Lei, signora, lei è una signora Carabue, tanto carina, non parlare. Tanto garbata. Carabue, non parlare. Io gliel'ho sempre detto ormai da anni. Quel forcone nelle sue mani, nonostante ho visto che ha acquistato un modello un po' più, diciamo, colorato, è sempre è una minaccia. Un forcone del genere può recare danno innanzitutto a se stessa. Direttore, lo faccia tacere. No, Rosina, lo faccia tacere. Non si arrabbi, Rosina. Sono adesso chiediamo a Carabue di ascoltare, no, la risposta. Vi dica, Carabue, senza interruzioni. Vi dica, Carabue, che stasera sono qui per lui, per dirle che lo denuncio, per avermi detto che devo trovarmi e andare da un psichiatra a farmi curare. No, stasera non l'ha detto. L'uomo avvisato è mezzo salvato. Domani non l'ha detto stasera. Dei carabinieri. Poi a un certo punto dice: no, ma ormai si conosco, aspetta, da anni. Ti infilo. Anche ha detto, io la conosco da anni. Sì, aspetta, ti infilo il forcone su per la pancia. Aspetta. No. Sì, sì. Stasera siete tutti agitati. L'ha detto 15 giorni fa. Vabbè, adesso non l'ha detto. Vedrai, Carabue, vieni che te lo inficio sulla pancia. No, no, non minacci. Ti ho detto che ti denuncio. Direttore, lo faccia tacere. Lo faccia tacere. Lo faccia tacere. Questo è da isolare, bellissimo. Direttore, lo faccia tacere. Lo faccia tacere. Direttore, lo faccia tacere. Ragazzi, il vero personaggio, però, vi dicevo prima. Ma se dovevamo pensare al povero Belpietro, no? Che la sera Pietro, è costretto. Non gliene frega, no, un cazzo. Vedo tutte le inchieste giornalistiche, sì, belle che ha fatto, eccetera. No, lo dico senza ironia. Ma lui prova a pensare, dice, torna a casa e dice, domani che va. No, cazzo, domani ancora la Rosina e Carabue. Cioè, no, no, no. Ragazzi, se avrete la pazienza e la avete di aspettare le 19.17, non so quanto cazzo durerà, è poi 20, credo, è 20. E le viabilità della minchia e tutte queste cose qua, che la gente ormai ha Google Maps e altre cose per vedere, per sentire le viabilità, non serve a una strafava, lo posso dire, no, o no? Però per la gente posso dirti che è utile. No, guarda, ma aspetta, è utile. Ma non è utile a un cazzo, aspetta un attimo. Allora, se la gente ha pazienza, vi presento veramente il personaggio del giorno, personaggio straordinario, eccezionale, personaggio del giorno fantastico, personaggio incredibile, un personaggio della televisione peraltro, ne ha dette di tutti i colori. Prima però, dove andiamo? Nicola da Bari, vai Nicola. Nicola da Bari. Dimmi, dimmi. Buonasera. Dimmi. Sì, volevo parlare del Ferroviere di Bari, però prima una piccola premessa sulla Boldrini di Radio 24 ore. No, ma ore, di chi? Non ho capito. Di chi volevi parlare? Del ferroviere licenziato. E che ha fatto il ferroviere licenziato? Non me lo ricordo. Quello, non so che quello che ha detto negro di merda. Ah, al, il ferroviere di Bari, risorsa, hai detto. Alla risorsa. Ah, che c'è? Ah, sì, ok, d'accordo. Allora? Niente, la piccola premessa su Parenzo e l'invito agli ascoltatori, ecco, no, ma non trovarlo così antipatico perché perché Parenzo recita un ruolo, il ruolo di traditore degli italiani. Lui non crede neanche in quello che fa. Però immaginate la sua figura quanto è importante a Radio 24 Ore. Immaginate un traditore tipo Giuda. Giuda, se non fosse esistito, immaginate il Nuovo Testamento senza Giuda. Quindi Parenzo ha il ruolo di traditore e lo deve portare a termine. Sì, quindi ma non accusatelo, non attaccatelo più di tanto. È un ruolo troppo importante per attribuirlo a Parenzo, ma a chi che sia questo. L'utile idiota in questo caso è Parenzo, vabbè, ma allora, piacere, nella storia ce ne sono stati lei tanti. Lei si chiama idiota? Piacere, Parenzo. Perdonatelo, io Parenzo dico agli spettatori di non... ecco, di non trovarla così antipatico. Vabbè, perché poi, non lo è. Lei sa che la maggioranza degli italiani la pensano come me, la maggioranza è silenziosa, quella che io chiamo la maggioranza. Come l'ha calcolata? Vabbè, allora che vuoi, Valerio? Detto questo, per i ferrovieri, dicevo, il provvedimento di licenziamento deve essere immediatamente revocato perché è illegittimo sia nella sostanza questo non che nella forma. Non fai l'avvocato perché, e non fai il giudice, poi? Attenzione, nella forma perché il negro di merda oramai non ha un'accezione più razziale, è molto attenuata, è come dire padovano di merda a Parenzo, non ha un'accezione razziale e quindi già solo per questo è illegittimo, cioè, licenziamento. Tu stai dicendo che la parola negro di merda ormai è entrata nell'accezione comune. Non ha più un'accezione razziale. Fermo. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Direttore, lo faccia tacere. La zanzara. Direttore, lo faccia tacere. Ospedale Bolzano Krankenhaus Bozen. Hey! Come Macron! Qua giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Scommetto che adesso tornate dopo la Befana, anzi dopo, scommetto che andate in montagna o al caldo, maledetti. Siamo qui a combattere, vivi, sempre vivi, caro David. Eccoci. David Parenzo in collegamento da Padova e se sente, però va bene, dai, sopportiamo tutto. Eccoci. Oggi che è l'ultimo giorno dell'anno, torneremo vivi più che mai l'8 di gennaio, ragazzi, sempre con voi. Speriamo, ci saranno le repliche. Dai. Speriamo di esserci, non lo so, può accadere qualunque cosa in questi 15 giorni, non lo so io. Ma che deve accadere? Che deve accadere? C'è gente decidere di andare a fare il volontario alla Caritas. Ma c'è gente già in astinenza da oggi. Comunque, uno dei personaggi più incredibili che abbiamo scoperto in queste ore. Ma tu dove andrai? Diciamo solo due, dove andrai a passare le tue vacanze natalizie? Sempre nei soliti posti. Prima a Pescara. Quindi nella tua tenuta. Vieni a Pescara? Prima a Pescara, poi. Ma come io sono venuto via da Pescara e tu vai a Pescara? E che cazzo vuoi? Prima a Pescara, poi successivamente Orvieto, come al solito. Ah, nella tua tenuta? Nella mia villa, sì, nella mia enorme villa. Nella tua super villa con 15 posti. 17 posti letto, sì, esattamente. Dove c'è lo spazio delle cantine per le due donne di servizio, che guarda, la cosa, ma non c'è nessuna donna di servizio. Quando racconteremo di dove fai vivere le due signore di servizio, ma non è vero, che sono costrette nelle segrete, io porterò le foto nelle segrete. No, nella taverna giù non riscaldata, e devono portarsi il fornellino, quello con la resistenza, che peraltro è molto pericoloso, è vero, perché non gli hai messo il riscaldamento sotto. Perché il riscaldamento, una cosa di una vergogna inaudita. No, perché il riscaldamento in realtà funziona poco e bisogna anche un po' risparmiare, perché ci sono i bomboloni, il bombolone costa una roba molto. Medioevale, in quella villa meravigliosa, dove c'è anche la chiesa privata, trattare due persone di servizio e metterle nella cantina giù con la resistenza lì, come si chiama, col fornellino, pericolosissimo peraltro, perché allora, ragazzi, niente. Sì, d'accordo. Allora, uno dei personaggi del giorno si chiama Nausicaa della Valle, non so se voi l'avete mai vista in televisione. Conosco benissimo, ho lavorato anche con lei quando ero a me. È un'inviata di quinta colonna, pensa, inviata del programma quinta colonna. In francese, quinta colonna. Quinzième colonne. Ma vedi che suona meglio. Vabbè, quinta francese. Colonna, comunque, credo, non mi ricordo più. Sostiene in un'intervista ad una televisione che si chiama Televisione Cristiana, cioè sostiene, rivela, sono guarita dall'omosessualità, grazie a Dio. I gay sono un abominio. Sono stata ex omosessuale, ex bulimica, ex anoressica, ex allergica. Una mattina ero a casa e ho detto al Signore che volevo studiare la parola e lui mi parlò con voce udibile e mi disse che lui era maschio e femmina e che aveva creato l'uomo e la donna e che quindi tutto ciò che era al di fuori della sua creazione è un inganno della menzogna. Satana. Questa signora sostiene che il Signore le ha segnalato alcune scritture in questo suo incontro mistico e sono pagine in cui il Signore lesse che Dio aveva abbandonato a passioni infami uomini con uomini e donne con donne, li aveva abbandonati al loro traviamento. L'omosessualità è un abominio agli occhi di Dio. È impazzita. Nausicaa della Valle. Io, come ha detto Chuck, giornalista, cantante, attrice, ex attrice, aggiungerei ex omosessuale, aggiungerei ex bulimica anoressica, ex allergica a tante cose e devo dire grazie a Dio e voglio rendere veramente grazie e gloria a Dio per tutto quello che ha fatto nella mia vita. Sono lesbica, si dice lei, sono omosessuale a tutti gli effetti, ma io ci sono nata assolutamente, è la mia natura, tutte le amiche le avevo così e quindi era un germogliare continuo, una conferma falsa e una certezza falsa di quello che ero. Tra le ultime fidanzate c'era una cristiana evangelica che ha cambiato la mia vita, ragazzi, questa è una storia straordinaria, il top del top. Tra le varie fidanzate che ho avuto, fu proprio l'ultima, che cristiana evangelica, che mi ha portato in una chiesa evangelica. E lì ci fu l'apoteosi, cosa possiamo dire? Ci fu un incontro scontro sovrannaturale meraviglioso, stupendo con il Signore. Non mi aspettavo, perché poi già prima di entrare in macchina sentì un cantico meraviglioso che lì ci fu l'apertura proprio del mio cuore, che sicuramente molti dei nostri telespettatori conosceranno come apri i miei occhi Signore, apri i miei occhi del cuore, voglio vederti. Ragazzi, amici miei. Beh, una grande storia di Natale, però, no? In fondo. Nel mondo della televisione governa Satana. Ragazzi, questa però non è conversione. Chi l'ha detto questo? Lei. Questo mi pare un po' eccessivo. Tu avverti però la presenza di Satana nel mondo della televisione, David? Ma tutt'altro, io avverto la presenza nel mio conto corrente. Il profumo dei soldi. Tu avverti il profumo del denaro. Ma quale Satana? Io al 27 del mese, come direbbe, non me frega niente, 27 del mese. Faccio l'estratto conto e spero di, come dire, no, di avverare la presenza non di Satana ma di denaro. Che cosa è successo? Dopo aver fatto il battesimo in acqua, cominciai a bramare per il battesimo dello Spirito Santo. Lì ho cominciato proprio, ogni giorno pregavo, dici Signore, io sono, lavoro in un mondo come la televisione, stavo nel mondo dell'omosessualità, cioè due mondi dove veramente Satana governa potentemente. Non mi puoi mandare come una pecorella in mezzo ai lupi, ho bisogno di essere riempito della tua potenza. Dico riempimi con la tua potenza, ho bisogno di te, riempimi, mi pregavo tutti i giorni. Ed ecco il passaggio decisivo. Di fronte a Dio l'omosessualità è un abominio. Io cominciai a leggere che Dio aveva abbandonato a passioni infami uomini con uomini, donne con donne, le aveva abbandonate al loro traviamento, e che era, il termine è forte, però quel termine a me personalmente ha toccato, cioè che era un abominio agli occhi di Dio l'omosessualità. Che io invece al contrario pensavo, ma come, dico, tanto Dio è buono, cioè che io, mi hai creato tu e la mia natura, no? Pensavo così. Anzi, mi correggo, il passaggio fondamentale è un altro, caro David. Coinvolgo lo Spirito Santo anche per comprarmi le scarpe. Il che, francamente, lascia un po' perplessi, perché va bene tutto, per carità. Però, sai, quando uno va a comprare le scarpe, si fa guidare magari dal colore, dalla forma, anche dal prezzo qualche volta, no? Cioè, so che a te questa cosa dà fastidio, però anche dal prezzo uno si fa guidare. No, dal prezzo si da prendere quel che serve, ma voglio dire, senti, eventualmente uno si può far consigliare da un'amica. Sì, però... sì, ma lo Spirito Santo, per carità, È una relazione continua e io sento il bisogno continuamente di relazionarmi con lui, ma anche per le cose più semplici, anche per andare a comprare un paio di scarpe. Io coinvolgo lo Spirito Santo anche per quello. Ma veramente, non sto scherzando, magari dico, Spirito Santo, avrei bisogno di questo, che ne pensi? Aiutami un attimo, è successo. Ragazze mie, se avete bisogno di andare a comprare le scarpe, interpellate prima lo Spirito Santo. Allora, io direi di andare a Lucio dalla provincia di Messina, anzi no, Lucio, aspetta un secondo, va, che ti richiamo. Luce. Prima Lucio, Lucio, Lucio, Lucio, Lucio. Ragazzi, qui è pieno di gente che vuole aderire al mio programma, Attenzione, bellissimo, vuole aderire. Nome, Lucio. Anzi no, andiamo a Lucio, Lucio provincia di Messina, vai, Lucio. Ah, Lucio o Luce? Lucio, Lucio, Lucio. Ah. Dimmi, Lucio. Cruciani, ti senti? Ti sento, Lucio. Sei una checca estetica e un mentecatto. Perché? Perché, ecco, iniziamo bene subito. Ecco. E chiude. Vattene Satana, vattene Asmodeo. Asmodeo, pentiti Parenzo. A me mi piace Osticchio. Sei Asmodeo, sei. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Direttore, lo faccia tacere! La Zanzara è la smart drug del futuro. Io veramente, se tutti i giorni non mi faccio il podcast, non mi faccio il mio podcast di Zanzara, comincio a tremare, mi gratto, veramente. Soffro senza la Zanzara e amo tutti quelli che chiamano, anche se mi stanno sul cazzo, li amo. È troppo bello quando ti trattano male, Parenzo, tu reagisci e loro storpiano il tuo nome, Parenzio, bellissimo, Parenzo, tipo Fantozzi, capito? Quando li chiamavano Pupazzi oppure li chiamavano Fantocci, cioè siete mitici. Ho sentito adesso il podcast, quello che dici riguardo agli All You Can Eat. Io voglio dirti che non sono Mauro da Mantova, né Donato da Varese, sono un manager d'azienda, che è abbastanza importante, e devo dirti che mi piace andare all'All You Can Eat, vado e mi sfondo. C'era un All You Can Eat a Parma che metteva con il nastro girevole e ti faceva impilare i piattini, io vedevo che i piattini crescevano 10, 20, 30, facevo la gara con gli amici, il record 57 piattini, mamma mia che goduria, siamo al top ragazzi, siamo al top. Ma quel, il coglione da Messina non c'è più? L'ex legionario, il coglione da Messina di prima. Non risponde più quel coglione, no? Vuole solo dare i suoi tocchi. Però ci dovrebbe raccontare prima o poi la sua storia, l'ha già fatto in un altro programma, la sua storia di ex legionario, da quanto ci viene ad apprendere. Stefano, sì, da Padova. È interessante, ma la cosa abominevole è questo elogio dello You Can Eat che ho sentito poco fa. Ma è un manager, è un manager. Ma lo You Can Eat sono concettualmente dei posti terribili, terribili, con queste masse di persone che si abbuffano, mangiano per 10,99 euro. Poi mi rompe i coglioni, se mi posso permettere, il fatto che ci sia spesso i 99. Mangia per sì, questo 10, è vero, questo anche a me sta sui coglioni. 11, porca miseria, cialata. No, 10,99. Sì, ma sono questioni fiscali. All you can eat, ma ho capito, ma tagliare volta tu vai al ristorante normale, ci sono degli all you can eat buonissimi a 30 euro, 40 ma euro, non dai. Puoi diffondere messaggi negativi, ma che cibo. Negativi, non rompere non i coglioni. Stefano da Padova, dai Stefano. Pronto, ciao Giuseppe, ciao Parenzo, sono Stefano. Vai. Dove stai Stefano, tutto bene? Bene, grazie. Vai. Sono arrivato a Padova oggi. Giuseppe, devo fare i complimenti per il tuo programma. Ma è un programma semplice. Liberi e armati. Qualcuno mi dice libertini e armati, però è troppo lungo. Allora è meglio... Non è proprio bello il nome. Dopo... Ma no, ma il nome è un gioco per prendere per il culo quelli liberi uguali, là, che è una cosa orrenda. Okay. Liberi e armati. È la prima volta che sento un programma politico coerente. Ma certo, assolutamente. Cerca di risolvere le emergenze attuali della società. Chiamalo Rambo, sto partito a questo punto. Chiamatelo Rambo. Ma che c'entra Rambo? Che c'entra cosa Rambo? Cosa c'entra? Non c'entra niente. Non intacca, ragazzi, la spesa pubblica, anzi l'aiuta. Ragazzi, qui non c'è. Esatto, ma qui non c'è né una cosa di sinistra né una cosa da destra. Legalizzazione delle droghe leggere, legalizzazione della prostituzione. Armi da fuoco, libertà, ovviamente non a cazzo di cane, maggiore libertà di possedere armi da fuoco e soprattutto legittima difesa al massimo livello, cioè dentro casa non devono nemmeno iniziare un'indagine se si spara dentro casa. Durante la cena di Natale, bussa Babbo Natale, tu gli spari. Ma che cazzo c'entra? Ma nel caso in cui si accerta che ci sono dei ladri, ma che cazzo dici? Dai, su, ma che vuol dire? Diventa un deterrente. Ma vabbè, che cazzo dici? Dai. Fosse un scusate, vestito da dai, dimmi. Diventa un deterrente come un antifurto, perché se la legge permette questo, cioè permette di sparare all'interno della propria casa, sì, è il miglior antifurto che possa esistere. Ma scusa, Viagra e preservativi di Stato non è ottimo? Anzi, direi anche una cosa: se la Chiesa si rifiuta, questo è un po' più, diciamo, è provocatorio, ma va bene, in un programma ci vuole anche questa cosa qua, ci vuole anche un tocco di demagogia, come si direbbe, no? Cioè, se la Chiesa si rifiuta di andare ad Avignone, come suggerisce non io, il professor Luttwak, se la Chiesa perché se, ragazzi, diciamo la verità, quella città del Vaticano va invasa, cioè costa, ci vuole l'invasione, cioè basta perché senso ha la città del Vaticano a Roma? Ma vi rendete conto o no? Cioè della follia dell'esistenza, la bisogna è territorio italiano, certo, non italiano. La città del Vaticano, ma di che stiamo parlando? Tu sei mai andato a comprare nei negozi dentro il Vaticano? Sì, ma la benzina, ma lo so, ma costa. Posso confessarti una cosa? Posso confessarti? La mia famiglia, storicamente, io non ho mai usufruito. Lo so. Aveva la famosa tessera del Vaticano in cui si poteva andare nello spaccio a fare benzina per anni. Mio questo zio spiega molte cose. No, infatti. Hanno usufruito di quella roba là. Io appena mi sono fatto un po' cosciente, poi ho perso la coscienza successivamente. Quando mi sono fatto un po' cosciente, ho detto: cazzo, ma questo qua è un privilegio assurdo. Ed ero radicale anticlericale. E lo sono anche un po' rimasto, al contrario di quelli che adesso vanno a braccetto col Papa. La Bonino va a braccetto col Santo Padre. Capisci la differenza? Ma ancora quella tessera o no, la signora? Ma no, mia madre no, non abita nemmeno più a Roma, per cui no. Qualcuno dei miei parenti, quelli sopravvissuti, ce l'avranno. Cioè, il punto... saranno contenti che gli hai fatto questa. Ma la dovrebbero bruciare, è un privilegio assurdo. Tu vai, sei italiano, vai là dentro il Vaticano sì, e paghi di meno. Dai, ma di che parliamo? Questo è vero, questo è vero. Se il Vaticano rifiuta il trasferimento ad Avignone, cosa possibile, ovviamente, bisogna utilizzare un'altra strada, che è quella dell'obbligo per le chiese di distribuire preservativi la domenica durante le messe. Per esempio, io potrei anche essere d'accordo, figuriamoci. No, ma perché, ragazzi, è una cosa buona e giusta, è il nostro dovere, fonte di salvezza, fare queste cose qua. Cioè, si evitano le malattie. Questo è il programma, dai Stefano, ti ringrazio per questo appoggio. Andiamo a Massimo da Milano, vai. Ciao, buonasera, vai. Cruciani, buonasera Davide. Dimmi. Ciao, ti appoggio al 100%. Ma lo vedi che c'è grande consenso, c'è consenso. Ecco un altro grande. Anzi, io cambierei anche il nome ancora più delicato, Sicuri e Libertà. Vabbè, che... sono sicuri e libertà è orrendo. Ma... cioè, sicuri e libertà è terribile. Scusami se te lo dico. Liberi poi... armati mi piace, ma è una presa per il culo nei confronti di un movimento giusto. Che mi pare guidato, mi dicono guidato da un signore che si chiama Grasso. Mi sembra, no? Un signore che si chiama Grasso. Non è né Aldo Grasso. Né Aldo Grasso, né il nostro amico Grasso. Beh, sarebbe meglio, molto meglio, questo, molto meglio, amico. Ripeto per l'ennesima volta, molto meglio Giorgio Grasso, ex assistente del signor Sgarbi, nonché vice sindaco di Salemi, di Grasso presidente. Sindaco. È stato vice sindaco di Salemi, sì, all'epoca, sì. E adesso cos'è? Adesso sta a casa perché è una storia che racconterò un'altra volta. Massimo, dai, dimmi, dimmi. Giorgio ma Grasso bene, molto meglio di Grasso. Sì, sta benissimo. Pure. Sì. Io allora per trovare i soldi per le pensioni. Primo, ritornare alle pensioni a 60 vabbè, anni. Vabbè, è troppo complicato, quello ci pensano altri. Sandro da Biella, però... vai, Sandro da Biella, Sandro. Sandro. Ciao Cruciani, Parenzo non lo saluto perché tanto fa parte della maggioranza silenziosa che non vale un cazzo in questo paese. Vabbè, adesso. Beh, è la maggioranza, Cruciani. Dimmi. La maggioranza. Non sento cosa dice. Ascolta, dimmi. Cruciani, tu... hai iniziato una strada, sei il Trump d'Italia. No, Trump d'Italia, non esageriamo, di ragazzi. È una cosa, hai già intrapreso, buttati sui social, no, tu stasera. Ragazzi. Ma che ragazzi? Ma non è, no, ma non io sono troppo guarda, innamorato di questa roba qui che si chiama microfono, lavoro, gli ascoltatori, la zanzara, il divertimento serale. La tragedia d'Italia. Hai capito, ragazzi, io però propongo fine, delle cose. Uno arriva fino lì, poi non va fino in fondo, come il solito. Ma no, ma adesso mi stai dando... L'italiano medio è così, ma tu fare il culo. Andare fino in fondo. Cazzo. Ti rendi conto che tu aprendo la leva del Vaticano apri in due questo paese? Ma qua. lo so amico finalmente mio, lo so. Abbiamo raggiunto una persona che ha avuto le palle di dire una cosa ma seria. Scusa, le cose, i tuoi amici radicali, David, scusami, i tuoi amici radicali che tu adesso tanto volevano fare qualsiasi cosa col Vaticano, ma guarda, ti faccio sentire delle cose quando erano seri, che volevano fare un culo così al Vaticano, adesso hanno la cacchetta che dal sederino, ma dai, su. Non è così. Sì, hanno calato le braghe, dai, hanno calato le braghe. Ma figurati, non Sandro, hanno però mi ha dato del traditore, Sandro, vedete, del cagasotto mi ha dato, Sandro. Ma porca puttana, certo, no, sei l'unico che dice delle cose, guarda Trump è l'unico americano, amico che mio, è l'unico quello, politico al mondo. C'è una piccola differenza, il signor Trump le cose le fa. Non ha bisogno di lavorare per campare, questo è il punto, perché è multimilionario, cioè, ma che te frega, ma ha cominciato come te. Era un pirla qualunque, si è buttato sui social e da lì è diventato un presidente. Pino da Caserta, ma tu ti rendi conto che politica si è buttato sui social, si fa un partito così dalla radio, dalla televisione, ma in che mondo viviamo? Ma secondo voi si può, ad esempio, basta avere 3 televisioni per fondare un partito? Vabbè, ma questo non, mi sembra... non accadrà mai, ma allora, forse è già successo, è già successo, cioè, che forse stai questo dicendo? È già successo, scusami, forse è già successo. Pino Caserta, vai. Pronto. Che paese, dimmi. Comunque, ragazzi, è un programma fenomenale quello che vi ho detto. Armi da fuoco, legittima difesa, droghe leggere legalizzate, legalizzazione della prostituzione, Viagra e preservativi per tutti, togliere qualsiasi vitalizia politici, togliere le quote rosa dal Parlamento, stop all'immigrazione clandestina in maniera feroce, Napoli governata dal Mossad. Quello è un po' più, diciamo. Napoli, questo è già un programma eccezionale. Chi è che non sottoscriverebbe questo programma? La maggioranza degli italiani è tutta qui e qui, l'altro che Liberi e Uguali, come cazzo si chiama? Dai, su, Pino, dimmi. Ma non Pronto? Sto scherzando, sto dicendo Volevo sul serio. Parlare. Però sono troppo innamorato di questa trasmissione, non lo lascio mai. Lo so. Pino, dimmi. Mi senti? Sì, dimmi, Pino. Mi sentite? Pronto, ma non stavamo parlando di fascismo. Vieni, papà. Pronto. Pino, dimmi. Volevo parlare di una scorreggia che finora non è mai stata contemplata. In che senso, scusa, Pino? È una scorreggia pericolosissima perché quando la fai non sai se hai sporcato la mutanda o no. Come funziona? Funziona che quando la fai sembra quasi che ti sei cagato addosso un poco. Scusa Pino, però che cosa ti ha spinto? Si chiede anche Parenzo, immagino, in questi secondi. No, intanto guarda, mi ha scritto un importante gioielliere di Milano che si chiama De Angelis, che dice: Cruciani, re d'Italia, incredibile, mi sto innamorando di lui. Io ti assicuro, questo è un mio amico gioielliere. Vabbè, ma lo apprezzo, ma sì, ma l'hai già detto. Roberto De Angelis. L'hai già detto, forse scusa. Lui non vuole, perché mi ha scritto, non dire, però vabbè, dai, Roberto De Angelis. Allora, sei incredibile. incredibile. Se fosse stato un amico tuo di Mentano, qualcun altro non l'avresti detto. Invece in questo caso lo dici. Sei veramente una vergogna. Sei. Comunque, vabbè, sì, è amico mio gioiere. Lo so che sono cose assolutamente normali e di buon senso. Solo mi che sto non. Sto innamorando. Di ragazzi, questo è il programma. Liberi e armati. Avanti tutta, avanti tutta. Pino, che cazzo c'entra adesso la scoreggia? Tu me lo vuoi spiegare? No, ma va bene. Questa è una trasmissione. Questi sono i miei argomenti, caccole, pene a destra, pene a sinistra. Ma non ho capito, tu sei innamorato delle scoregge? No, sì, mi piace farle, perché è una liberazione, è bellissimo. Ma lei però ha avuto, durante l'infanzia, lei è stato sempre bene o ha avuto dei problemi legati allo sviluppo, ad esempio? No, problemi legati allo sviluppo. Ma com'è la scoreggia, la scoreggia quella veramente liberatoria? Quella liberatoria. Ma tu con tua moglie sei sposato, per esempio, Pino? Sì, sì, sì. Ma le fai davanti a lei? Sì. Sì. E lei che dice? Io spero che le faccia pure lei, però lei le fa molto raramente. Le no, fa ma, notte, ma quando tu le fai davanti a lei, lei che dice? Niente, ti sei liberato. Ti sei liberato? Niente, così, zitta, zitta, con sopportazione, così. No, gira la testa dall'altra parte. Passamelo un attimo, no. È là? Passamelo. No, non è qua. Ma vai a cagare, va. Ciao. Dedicato a te, David, questo è per te. Ragazzi, prossimamente ci sarà uno Zanzara Party a San Benedetto del Tronto. Ho deciso questo, Zanzara Party a San Benedetto del Tronto. Non lo so, prossimamente vi annuncio Zanzara Party Centro Italia, così tutti possono venire. San Benedetto del Tronto. Cioè, facciamo la diretta da lì praticamente. Liberi Armati presenterà il suo programma durante lo Zanzara Party a San Benedetto del Tronto. Ragazzi, allora c'è una cosa importante che vi devo dire. Nei giorni scorsi è arrivato questo comunicato, anzi no, oggi, ieri, non mi ricordo. Vi leggo questa cosa qui. Il generale Pappalardo è andato al Quirinale insieme ad una delegazione del suo movimento perché voleva arrestare Mattarella. Arrestare Sergio Mattarella. Vabbè, è un disturbato, dai, uno spostato ormai. Arrestare Sergio Mattarella voleva, insieme ad una delegazione del suo movimento, il generale Pappalardo voleva far arrestare Sergio Mattarella. Pronto? Sì, pronto, Pappalardo? Con chi parlo? Sono Cruciani, come andiamo? Oh, caro Cruciani, tutto bene? Sì. Ecco, generale, buonasera, generale. Buonasera a lei. Senta, ma questa storia di Mattarella non abbiamo capito bene, che è molto interessante. Cioè, gliela spiego subito. Ecco, me la spieghi, sì. Lei sa che noi ci siamo mossi su una linea di estrema legalità. Beh, siccome i parlamentari non sono stati convalidati, i parlamentari non convalidati hanno eletto il capo dello Stato, che non è il capo dello Stato. Dunque, secondo voi è illegale? È illegale Mattarella? Non è stato eletto da parlamentari convalidati, siamo andati lì. Sì. Ci siamo presentati, lì all'ingresso abbiamo trovato un funzionario del Quirinale, certo. Abbiamo detto di far scendere il Sergio Mattarella, ma ha detto non è disponibile. A me, guardi, non capisco cosa vuol dire non è disponibile. Beh, sì, c'era da fare, io no? Non voglio sapere se è nel palazzo o non è nel palazzo. Non me l'hanno saputo dire, ho detto a questo punto, siccome non è scende, noi consegniamo il verbale di arresto nelle mani di un colonnello dei carabinieri che era vicino, gliel'abbiamo consegnato. E lui? Gliel'abbiamo dato e ha detto a questo punto lei glielo consegna, ci penso io signor generale, glielo consegni e gli dica che noi lo dichiariamo in arresto per usurpazione di potere. Scusi, ma questo carabiniere lì, perdoni, questo carabiniere che ci ha fatto con questo mandato di arresto? Cioè, con questa... Ma niente, lo ha consegnato al presidente Sergio Mattarella, dopodiché noi siamo andati al comando stazione, faccia stare zitto quel ciarlatano. Noi stiamo parlando di una cosa seria, faccia stare zitto i ciarlatani. Siccome stiamo parlando di una cosa seria, faccia stare zitto i ciarlatani. Stai zitto un attimo, fammi parlare con Pappalardo. Dimmi. Sergio Mattarella Mattarella non è Dio in terra. Sì, beh, Sergio insomma, Mattarella, sì, no, certo, è un cittadino come tutti gli altri. Non c'è dubbio. E la legge è uguale per tutti. Sì. Ma lei perché è il suo Parenzo è una persona che lo fa ovviamente per guadagnarsi lo stipendio. Perché se non dice lei quelle quattro stronzate, non ammetterebbe nulla, perché non fa un giusto ragionamento. Generale, scusi un attimo. I ciarlatani li faccia star zitto. Questa è una cosa seria. Generale, però mi scusi, voi volevate. È una cosa seria, una cosa però, seria. Generale, voi volevate, adesso oggettivamente, voi. Cruciani, vi siete messi in testa di arrestare Mattarella, amico mio. Lo abbiamo dichiarato in arresto. Ma ho capito, ma non va, come avete dichiarato in arresto? Ma chi? Ma perché? A nome di chi? Attenzione, articolo 383 del codice di procedura penale. Ma non funziona anche così. Il ciarlatano di Parenzo può arrestare chi venga colto in flagranza di reato. Lei è un imbecille. Articolo 1. Lei è un imbecille. Dica a Parenzo che è un ciarlatano. A nome di chi volevate arrestarlo? Noi cittadini. Ma i cittadini a nome di chi? Ogni cittadino che sorprende uno che commette, per esempio, faccio un esempio. Lei vede un tale che fa una rapina e rapina una donna. Dice l'articolo 383 del codice di procedura penale, sì, che lei, sì, anche se non è un agente di polizia giudiziaria, lo può prendere, sì, lo può fermare, lo può arrestare. Ma lei sta paragonando Mattarella a un ladro, a un rapinatore, ma si rende conto? Ancora peggio, perché ancora peggio perché il ladro commette un reato di appena 4-5 anni di carcere. Aspetta, lui commette un reato di usurpazione di potere politico. Quanto rischia? Quanto rischia? 15 anni di carcere. La cosa avvenente è che non c'era nessun giornalista lì alla porta, cioè noi andiamo ad arrestare il capo dello Stato, non c'era nessuno. Ma nessun giornale ne ha parlato. Ma i giornalisti perché non si impiccano e non vadano a buttarsi a mare? No, caro Parenzo, lei deve dare dell'imbecille ai giornalisti che non sono venuti, a quelli della RAI, che prendono un sacco di soldi. Aspetta. Un sacco di soldi, dovrebbero vergognare. Parola Parenzo. Prendono un sacco di soldi e non fanno il loro dovere di informare la gente. Aspetti. Non c'erano i giornalisti perché c'era Moira Orfei con gli elefanti con lei lì, per è una battuta simpatica, però no, continua a dargli del ciarlatano. La cosa pericolosa, a me dispiace per i suoi familiari, i suoi familiari saranno in apprensione per il suo stato di salute. Supponiamo che noi avessimo fatto una fesseria, secondo me lei non ci avrebbero già arrestato. Ma non vi arrestano perché non gliene frega un cazzo a nessuno, per questo non vi temono. Ma perché conclude in questa maniera, non gliene frega un cazzo a nessuno? Ma perché non perdono tempo, non perdono tempo. No, Cruciani, lei è un giornalista, la prego. Ho capito, non perdono tempo. Se per caso non è una questione di perdere tempo, perché se ci arrestano devono fare il processo. Minchia, fai un processo dove poi si dimostra che noi avevamo ragione. Sono cazzi amari per qualcuno, sono capito? Cazzi amari. Siccome il processo non si deve fare perché loro hanno torto. Proviamo seriamente a prendere in considerazione che il generale è una persona normale. Proviamo, io ci voglio provare. Mettiamo per 40 secondi, penso che il generale sia una persona normale e lo tratto come una persona normale, no? Quindi non lo tratto come un imbecille, cosa che meriterebbe, lo tratto come una persona normale e racconto al mio direttore, no, dico direttore Mentana, ho una notizia. Mentana mi dice: oh David, finalmente dimmi che notizia è, il generale Pappalardo vuole arrestare Mattarella. Ora, sì, mettiamo solo che gli dica così al direttore Mentana, no? Dico alla Mentana: ho una grande notizia, una bomba, il generale Pappalardo sta per arrestare Mattarella. Chi lo paga? Mentana chi dice, lo paga? Chi lo paga Mentana? Mentana. Aspetta. Caro Parenzo, chi paga Mentana? Raccontami. Chi è che paga Mentana? Chi gli dà lo stipendio a Mentana? Chi gli dà lo stipendio a Mentana? E a quel punto il direttore mi dice: ma come sarebbero andati i fatti, caro Parenzo? E dico: guarda direttore, sono andato lì, c'era il generale Pappalardo, c'erano altre quattro persone, hanno chiesto a Mattarella di scendere e Mattarella non è sceso. Secondo te il direttore Mentana cosa farebbe? Ti caccia dalla sette. In 42 secondi, ma neanche in 42 secondi, mi tira anche i libri che sono nel suo ufficio in testa, dice: vai fuori da qua, non ti voglio più vedere. Gli dico: no direttore, ma te lo giuro, lo voleva arrestare. E alla fine ha consegnato una lettera al generale alle due guardie che sono Parenzo, da chi viene pagato Mentana? Da chi viene pagato? La Gruber, da chi viene pagato? Quanti soldi prendono questi signori? Li paga il popolo, li paga la gente o li paga li pagano i poteri che tengono il popolo nella merda attuale? Diciamoci la verità, Parenzo. Diciamo la verità, generale, è l'unico che viene pagato dal popolo è lei, è l'unico che viene pagato da noi è lei. Faresti una molto più bella figura se tu attaccassi invece Sergio Mattarella e gli dicessi: caro Sergio Mattarella, il generale Pappalardo ti è venuto a arrestare. Dicilo poco, ma tu veramente l'hai commesso sto reato, Sergio Mattarella? Invece di telefonare a me, no, il signor Parenzo non telefona a Sergio Mattarella. Ma perché lo piglierebbe per matto? No, perché è il capo dello Stato che lo fa mangiare. Ah, ho capito. Ecco perché Parenzo non attacca il capo dello Stato. Arrivederci, generale Pappalardo. Perché non difendi Totorrin? Meno vino, Totorrin, generale. Difendi a Totorrin. Quello è morto. È morto. Beva meno. Totorrin. Ma se lei sta paragonando Rina a Mattarella. Lei lo sta paragonando, Parenzo. Lei lo sta paragonando. Arrivederci, generale. Il generale. Pronto, pronto. Prima si parlava di Mussolini. Dai, andiamo, papà. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Prima si parlava di Mussolini, ma molti non lo sanno. Non sanno che Mussolini ha salvato l'Italia e credono di parlare. Parlano come tanti cretini. Dai, andiamo, papà. Parlano come tanti cretini. Dai, andiamo, papà. Non vedete che non è il professore? Non lo vedete che è un povero handicappato? Venga, caro, venga. La porta al suo reparto. No, venga, no, venga. Veramente. Venga, caro, venga. Dici, no. Adesso venga in camera, ecco. Parlano come tanti cretini. Dai, andiamo, papà. Via! La Zanzara. C'è tensione. Tradimento. Ah, andiamo avanti. Andiamo avanti. Hai capito? E cancella le mie foto. Sono in profumeria per un regalo di Natale, sto passando vicino a tutte le più fighe e emanando dei gas putridi. Ancora non mi hanno beccato, continuo la missione. Ciao Giuseppe, ho mangiato la zuppa toscana, ho fatto una scorreggia, mamma mia, ci ho pensato a te. Oh, e andiamo avanti. Mi faccio paura da solo. Sono qua dal concessionario a ritirare la macchina e ho fatto una puzza con rumore e con indifferenza ho fatto finta di niente. Finalmente il processo di crucianizzazione della mia ragazza sta dando i suoi effetti. Scorreggia come una ventuela. Tutta ragazzi sta avete crescendo, distrutto il mondo, state distruggendo anche le relazioni umane, per cui quel minimo di pudicizia che in genere, infatti la domanda importante da fare sarebbe proprio questa alle coppie, no? Quando lui inizia a fare queste puzzette terribili davanti alla moglie, alla compagna, sì, alla fidanzata, sì, beh, è l'inizio della fine, cioè vuol dire che non c'è, no, più al contrario, quel... al contrario, no, è segno di grande intimità, consuetudine, no, male, ma è un segno di degrado della coppia, no, che degrado, no, no, di grande intimità in cui si può fare quando qualsiasi cosa, quando inizi a fare quella cosa lì vuol dire che non hai più rispetto della tua persona, non so, che non hai sono quel d'accordo. Livello, non è così, non è così. Alcuni amici nostri hanno provato a fare gli auguri di Natale al signor Emilio Fede, purtroppo è finita malissimo, caro Parenzo, è finita molto male. C'è quello con quell'accento triestino terribile, terribile. Sì, pronto? Sì, direttore, buonasera. Come sta? Volevo farle gli auguri di Buon Natale. Va a cagare, tu e quella puttana di tua madre. Ma perché mi dice così? Io volevo soltanto farle gli auguri. Indefessente. Cornuto di merda. Ma non sono un cornuto di merda, io volevo solo auguri. Frocio drogato. Ma neanche frocio drogato, volevo fare gli auguri. Ma perché? Ma scusa, Davide. Sei incazzato. Questa volta non è successo nulla. Non capisco perché. Aveva intuito, era impazzito dalla voce, appunto. Ma no, voce, ma non c'entra niente. C'è un nostro amico, voleva fare gli auguri, poi ci ha mandato questo file, diciamo, preso da. Preso dal perché suo telefono. Il direttore Fede è stato molestato per anni dicendo che aveva questo è molto grave, e questo è molto grave. E però... quindi lui ogni volta che non riconosce la voce o il numero manda a quel paese, capito? Quanti soldi deve avere? Da lì. Ma quelli che sono solo! Porca la puttana, è andata a fanculo! No, Emilio, scusa, ma chi si è arrabbiato con loro? Rotti i coglioni! Siete delle merde! 15.000 euro! Ho rubato! Ma che è successo? Ma scusa, ma andata a fanculo! Vabbè ragazzi, dai, Gennaro da Caserta, vai Gennaro, Gennaro. Signor Gennaro, signor Gennaro. Gennaro, no, però Gennaro, aspetta un attimo. Arrivo subito da te, però io vorrei ricordare a tutti che la notizia l'albero del giorno... L'albero rubato a Napoli l'abbiamo già dato, l'albero rubato a Napoli con la motosega, hanno rubato pure le palline, tutto ragazzi, entro 24 ore, è una tradizione napoletana questa qua, pare. Cioè, ma l'albero... hanno chiesto il riscatto dell'albero, no? In piazza Umberto, in galleria Umberto, non so dove cazzo sia, rubato dopo 24 ore, che cazzo lo fanno a fare? Almeno... la galleria Umberto è in pieno ma almeno, lo almeno risparmiano, ci fosse una telecamera, un qualcuno che inquadra, a parte che anche con le telecamere che cazzo ci va, vale a pizzicà poi quelli lì a Rione sta minchia lì, dai, su. Vabbè, comunque la notizia del capotreno, secondo me poi mancava il personaggio, cioè mancavano alcuni dettagli sull'uomo, cioè il capotreno che ha detto negro di merda all'immigrato, ormai è la storia che molti di voi conoscono, ed è stato licenziato per avere detto di negro di merda a un immigrato che non aveva il biglietto. Ma la vera storia, ragazzi miei, è quella che è venuta fuori ieri sera quando l'abbiamo intervistato. Cioè questo è single, 25 anni, vive col papà e le gatte. E le gatte, amico mio, le gatte. Sto bene da... non lo so, mi sembra. Sto bene da solo. Non voglio avere una fidanzata. Una roba incredibile. Questa è la notizia vera che fa capire tutto. Quanti anni hai? Che sembra che c'hai 50 anni, invece quanti anni hai? No, 25 anni, vivo sembra... ancora con la mia famiglia. Beh, sembri più vecchio di quello che, perché che hai. No, per carità, assolutamente. Ma sei fidanzato, hai una vita normale? No, sono single, vivo ancora con mio papà e le mie gatte, ecco, sono in casa ancora. Con tuo papà e le gatte, beh, stupendo. Sì, ho due gatte, sì, ci sono affezionato come due figlie. Addirittura. Ma tu fidanzate, niente, zero, sì. Non ti piacciono? No, sono single, sto bene così. Cioè le donne non ti piacciono a 25 anni, amico mio? No, sto bene da solo, guarda. No, ma se gli piacciono i gatti, però, insomma, io non ho capito. Gli piacciono i gatti, lascia che stia con i gatti. Ho capito, ma io sto chiedendo, a 25 anni uno di solito c'ha la figa in testa. Va bene, ma gli piacciono i gatti, meglio star con i gatti che dare del negro di merda a un passeggero sprovvisto di biglietto. Io sto bene da solo con i miei treni e le mie gatte, ecco. Benissimo, treni e gatte, va bene. Treni e gatte, va bene. Allora, cosa fare? Scusami, allora, Giordano, ma come si chiamano le gatte? Tanto per curiosità. Si chiamano Trilli e Fiocco. Trilli e Fiocco, amico mio. Ma cosa fa a Natale? Ma che ti frega a te cosa no, fa so, Natale? Mi interessa molto a la vita Natale di sto in casa, non è che abbia tanta voglia di festeggiare. Ma che te, che... Amici, ma di una fidanzatina l'avrà avuta una passione? Ma magari però gli piacciono i maschi, che ne sai, scusami. Non insistiamo su questo fatto. Una passione, dai, di una ragazza, qualcuna che dice mamma mia, ma mai avuto mi, una fidanzata? Mi ha preso. No, sto bene da solo. Sì, ma una sta bene da solo, basta, sta bene, no, da solo, basta. Mai avuto una fidanzata a 25 anni? Mai. Scusami, allora, Giordano, ma come si chiamano le gatte? Tanto per curiosità. Si chiamano Trilli e Fiocco. Trilli e Fiocco, amico mio. Gennaro, vai. Ma perché dicevi amico mio? Vabbè, amico mio, che ne so, ragazzi, questo qua non me la conta giusta, è un uomo molto simpatico, per carità, però... comunque io lo assolvo, a nome di Liberi Armati lo assolvo. A nome di Liberi Armati Liberi, lo... Ma chi roba è essere Liberi Armati? È un movimento terribile, terribile. È terribile, movimento è un movimento fondamentale. Populista, ma che terribile. Populista, ancora con queste cazzate. Gennaro da Caserta, vai Gennaro. Sono etichette, Giuseppe, volevo dirti una cosa, no? Tu che critichi sempre il sistema di privilegi dei... Hai parlato pure del Vaticano adesso, no? Che, e io posso essere anche d'accordo, allora? Su quello che dicevi prima, sui i vitalizi dei politici. Perché non la fai tu una bella botta di spugna, un colpo, no? Tu pure faccio? Prendi 15.000 euro al mese, sei un privilegiato pure tu facendo il tuo lavoro. Veramente non no? mi risulta che ne prendo così tanti. Comunque, vabbè. Quanto ne prendi? 12, ne 13? Prenderò tanti, ne prendo, però non è che ne prendo. Quindi no, dipende, che significa? La... L'ordinetti, che significa? Cioè... Vabbè, comunque 7-8.000 euro netti li vai a prendere. Ma anche di più, se è per quello. E allora, perché non ne cedi 5.000? In generale, 6.000? Dico, in generale, nel complesso. E perché per se tu sei un personaggio pubblico, allora che perché cazzo non cedi 5-6.000 euro in, e quindi dai una buona idea. Ma non vuole idea sto cazzo, ma che sei scemo, cazzo, ma che ad sei esempio, scemo? Devolvere la tua tredicesima, ha ragione, poi io non ho tredicesima perché ma sono non ci penso nemmeno lontanamente, ma può essere un'altra ma no, idea, ma non ci penso nemmeno, ma no, assolutamente no. Della tua tredicesima, ad esempio, ha ragione questo signore. Ma devolvere che cosa? Ma che siete impazziti? Devolvere la metà della tredicesima, non ti dico tutta, la metà. Io non devolvo nulla, non devolvo nulla, ma assolutamente non ho mai devoluto niente a nessuno, chiaro? Molto chiara questa cosa qua, chiarissima, mai fatto a beneficenza in vita mia, mai dato un euro per strada, mai fatto a beneficenza in vita mia, mai dato un euro a un mendicante per strada, mai dato un euro a un barbone, mai dato mezzo euro a chiunque, zero. Un grandissimo pecorone. Ma che vuol dire pecorone? Ma che vuol dire pecorone? Che come vuol dire che sei un pecorone perché tu vuoi scopare con il culo degli altri. Ma che vuol dire? Ma che stai dicendo? Che dici? E cominci a dare tu il segno. Ma che c'entra? È quello io, ma non c'entra nulla, sei un deficiente. Niente, ah, c'entra è come pure. No, vatti a fare un tè caldo, come dice Caressa. Ma che tè caldo? Una tisana, una tisanona. Come dai. Bella scopare con il culo degli ma altri. Ma che c'entra? Ma non con c'entra. Pancia, ma tra l'altro, non è l'esempio. Ma non è. Affamare la bestia, affamare la bestia. Questo... E perché la bestia tua non la vuoi affamare? Ma che come c'entra? Segno di... Ma che sei scemo? Sei? Ma, che mi ma devo... non è perché scemo. Dovrebbe affamare la bestia sua? Tu sei un personaggio dei media, no? E allora che devo fare? Devo fare beneficenza perché lo dici tu, non ho capito. Inizio, per dare anche un colpo di spugna, per dare un colpo, ma colpi di spugna è un'altra cosa, non vuol dire no. Niente, non sai nulla, parli pure male perché va benissimo, per carità, se non parli è male. Vero, tu lo dici tu che no, però lui faccio dice... capire bene, ne lui... è poco ma mi faccio capire bene, non ti preoccupare, lui dice una cosa in questione, giusta, sei tu qua. Capito? È una cosa giusta, dare un segnale, non un ma che dare un segnale, ma non, dare mi un segnale. Ma non mi rompete i coglioni, non ho mai fatto beneficenza in vita mia, mai mezzo euro e me ne vanto, chiaro? Via. Però ragazzi miei, qui in collegamento da Budapest, credo, dove si trova, forse, non lo sappiamo. Beh, Rocco Siffredi non può mancare nell'ultima puntata della Zanzara. Rocco, come va, Rocco? Come stai, man? Come stai? Molto bene, molto bene. Hai visto, hai sentito del nuovo partito che ho proposto, Liberi Armati, che mi sembra ottimo. Io ti dico la verità, ci sono tante cose che condivido, sì. E quindi te l'appoggio. Bene, bene, bene, grazie. Non me l'appoggiare troppo, se beh, no capisco. Se no capisco male. D'altra parte, la tua arma, come dire, è letale. Lui è letale. È armato. Lui è letale. È armato, però queste sono battute facili, diciamo la verità. Vabbè. Allora, la questione è molto semplice. La signora Cicciolina, nei giorni scorsi, proprio qui alla Zanzara, interpellata da questi due cretini che qui presenti, ha detto che in realtà lei non puzzava sul set. Ora, tu cosa volevi dire con quella frase lì? Non mi sembrava particolarmente offensiva. No, io lo so che tu ultimamente, perché vi seguo, sì, sta facendo una campagna contro chi si scusa e io sono con te, però esatto, le interviste che io faccio, sì, tipo le Iene, sì, io ho iniziato dicendo, innanzitutto vorrei chiarire che ha ragione lei, un uomo non può dire di una donna puzza, anche se puzza, quindi ho sbagliato e gli chiedo scusa, almeno qui è live, qui si sente, però gli chiedo scusa come donna, poi in realtà lavava con latte di capra, l'ho visto, sono salito nell'appartamento, ho visto la vasca piena di latte, lei purtroppo ha ragione, io sono un carattere del cazzo, dico sempre la verità, mi metto sempre nei guai, mia moglie me lo dice sempre, però sono così. Quindi, cioè, non ho capito, tu non hai capito, però tu te scusi. Lui conferma che si lavava del latte. Io mi scuso di averla, tra virgolette, sputtanata, perché lei si è sentita da donna offesa, quindi è giusto che lei si incazzi con me. Però il fatto è vero. 30 anni fa, sì, io quando lavoravo con Cicciolina era terribile l'odore del latte perché lei se lo faceva seccare sulla pelle e non si lavava perché lei aveva questa mania della pelle bianca che voleva essere giovane tipo Cleopatra per sempre. Infatti una donna molto bella a 65 anni ha una pelle bellissima grazie al latte di capra. Adesso non voglio fare la pubblicità, però sul set, però se io sentiva che me la dovevo, io che me la dovevo scopare e mi dava una rosetta con tonno tonno e pomodoro al giorno 8 ore sul set, e lei si ricorda perché era pure abbastanza tirchia, sì. Allora voglio dirti pure, perché era la produttrice, sì, voglio dirti, oltre a quello, quello e quell'altro, adesso si incazza, poi ha aggiunto, sì, Rocco Siffredi non vale un cazzo, va bene, ci sta, è arrabbiata e dice John Holmes è un divo, John Holmes è stato il mito, sì. Lei non si, non si ricorda però, sì, che io ero sul set di Banana Cioccolato con John Holmes, ero lì e che succedeva? Accompagnavo Christophe e io ero ai miei debutti e sul set c'era Cicciolina sdraiata e c'era il grandissimo John Holmes, perché è stato un grande, sì, con due fluffer girl, una era la sorella di Moana, sì, baby, sì, una era Hula Hoop, una pornostar. Come romana, no? La ricordo benissimo, la signorina, la signora Hula, ecco, Hoop, sì, Hula Hoop. Ecco, bravo, loro due con quattro mani e ci avanzava un pezzo d'uccello di cappella da John Holmes, che gli tenevano duro. Come si avvicinava su Cicciolina, il serpentone se ne rientrava. Quindi, cioè, in che anche senso? Con Ilona, il signor John Holmes non è che tirava tanto. Quindi che cazzo dice? Ma poi, scusa, John Holmes è un mito. Io almeno l'uccello lo tenevo duro anche con l'odore, sì, del latte di capra, capito? Tu dici John Holmes alla fine non era poi questo super dotato, questa persona efficiente. Ma che sei pazzo? John Holmes aveva un uccello e mezzo mio, tutto su di però lui, non era efficiente, enorme. Però non era efficiente, dici? Non era efficiente. No, allora lì su quelle dimensioni, man, non posso dirti, non esisteva nulla all'epoca, quindi nel Viagra. Sì, però appunto per quello, era, forse per era quello. Era full nature. No, il problema di John Holmes è un altro. Man, qual era? Lui. Parenzo, te non ti posso chiamare man perché tu non mi capisci, Cruciani, sì. Però ti dico, però non ti mi piacciono i DJ man. Allora, però ti dico, Giuseppe, ti dico una storia. Lui era veramente una star, quindi si poteva permettere, sì, di fare la star, cioè di fare anche tra virgolette quello che non gliene frega niente della donna che andava davanti. Certo. Non me lo fai tirare, prendo le fluffer. Prendo le? Che cosa prendeva lei? Sono quelle due ragazze sul set, erano le fluffer, quelle che sono, sì, addette a far tirare l'uccello, ma non sono in scena. Hai capito? Ma una roba incredibile, cioè una roba pazzesca. Sì, ma le fluffer, ragazzi, le fluffer io le ho conosciute solo all'inizio della mia carriera, perché ma che ambiente è? Ma che roba è? Però adesso le fluffer, cioè già dagli anni 87-88 non c'erano, cioè, più. Cioè sono quelle, tu dici, sono quelle che hanno, che poi sono state sostituite dal Viagra, dalle punturine, eccetera. Prima c'era quella roba, è un po' come nelle corride dove prima ci sono quelli che gli lanciano le banderillas per far stancare il toro e poi arriva il torero. Bravo. E lui era il torero, vero, perché credimi, dal vero faceva paura. Adesso te lo dico io che non sono piccolino. Dal vero faceva paura, perché lui era magro, sì, magrissimo, sì, un enorme, veramente intimoriva. Però ti assicuro, sì, che aveva la faccia di quello che, oh, you are Cicciolina, I don't fucking care, you don't turn me on. Chiuso, cioè? Dammi tua sorella Moana, cioè voglio la sorella di Moana e Ula, succhiatemi il cazzo, così faceva. Quindi zero rispetto. Sì. E quindi questa è la realtà. Cicciolina si ricorda di una grande star che gli ha mancato di rispetto, che non gli tirava l'uccello quando davanti a lei faceva sesso con lei, e lei dice lui è stato un vero mito, sto cazzo, lui è stato un vero mito, lui è pazzesco, un vero mito, però non è, voglio dire. No, ma ho capito benissimo. Allora fermi tutti che torniamo tra poco anche con un altro ospite in questa puntata finale dell'anno. Ci ha rivelato alcune cose incredibili il signor Siffredi, soprattutto questa cosa qui che dice è anche tirchia la signora Ciccione. Che vuol dire anche tirchia? Solamente rosetta. Da produttrice dice rosetta, tonno e pomodoro, dunque non dà. Allora senti Giuseppe, 8 ore. Un panino, pomodoro e tonno, perché a me la mozzarella mi fa schifo, e poi, capito, tirchi, ma non tirchi, di più. più. Ma chi? Lei è coso? Purtroppo lei è il grande Riccardo. Però grande rispetto per Riccardo, perché ha elevato la pornografia. Però dici, la realtà è la realtà. Fermi tutti. Fermi. Ed è venerdì. Crucia finalote. Non mi rompete. Sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Stronzone! La zanzara! Simone! Direttore, lo faccia tacere! Allora, puntata finale dell'anno, Rocco Siffredi in collegamento da Budapest, fra poco un altro ospite grandissimo. Senti, Rocco, tu hai mai girato dei film con dei nani? Sì. Sì, sì. Pure. Sì, sì. Uno dei miei primi a Parigi, quello che stava praticamente quando ho iniziato a fare il pornostar, facevo il cameriere, sì. E c'era un negozio di frutta a fianco. Quando si accorti arabi, turistini, sì. Quando si sono accorti che ho iniziato a fare il porno, il fratello più piccolo di questi 6-7 fratelli era un nano e mi ha chiesto se lo portavo a fare il film. Però è una cosa pazzesca. Sì. Sono riuscito a convincere Michel Ricot, regista francese, che mi ha fatto debuttare con me ugualmente. Sì. E l'abbiamo portato sul set. Lui se n'è venuto appena gli hanno aperto i pantaloni, poi l'ha tirato fuori, ha schizzato di nuovo, poi gliel'ha preso in mano, ha schizzato di nuovo. Questa è una cosa. No, non capisco. No, è venuto, ho perso dei passaggi. Ma è vero, questa cosa che era dotato o no? Che erano dotati i nani o no? Ma era dotato sì, perché lui aveva le dimensioni reali, eppure abbastanza grande, su un corpo di bambino, quindi sembra enorme. Sembra enorme. La cosa pazzesca è che ha fatto quel film, poi non l'hanno preso più, è tornato a lavorare nelle cose. E te credo, perché non era quando mi guardava. No, quando mi vedeva mi diceva: Rocco, mi hai fatto vivere un sogno, ero vergine. Tu puoi immaginare, ero vergine. Questa aneddotica di sogno. Lo sai che accanto a me, caro David, caro Rocco, in collegamento da Budapest. Come festeggia il Natale, Rocco? Come tutti. Con mia moglie. Allora, tu non ci crederai, David. Mia moglie e i miei figli, sempre il Natale, solo noi. Bellissimo. È una festa nostra. È il momento per stare con la famiglia e con i figli, e tu sai che a me, oltre la figa, che mi piace tanto, l'altra cosa che mi piace di più è la mia famiglia. Senti, ma col Berlusca ti candideresti o no? Domani, cioè se te lo chiedessi adesso, candidati con me, subito. Cioè, hanno molti punti in comune anche per questi Beh, quello lo sappiamo. Sì, cioè, il presidente è il numero uno. Nel prossimo Parlamento entreresti, tanto per fare un giro, che cazzo te frega, cioè, o no? Ma sarebbe straordinario. Un altro schiaffo a Cicciolina sarebbe, pensa come roderebbe il culo a Cicciolina il fatto che tu entri. Voglio chiarire per Natale, ma è importante, io mi sono segato tutta la vita con i loro. Fregato per davvero, gli ho dedicato io me la sono fatta 50.000 volte solo. E allora? Ma che meraviglia! Ma extra film, io sono ancora un grande fan suo, nonostante il figlio ha deciso di affrontarmi. Io gli dico al figlio che lo capisco, perché anche io ho due figli che sono figli di un pornostar, capisco tutta la situazione. E di nuovo concludo dicendo, veramente, Cicciolina, mi scuso. Purtroppo pure Rocco si scusa, ragazzi, è finito. Sì, no, ma ho capito il senso. Con la donna. Scusa, io non riesco a dirle stronzate, sono abituato a scopare da 30 anni e a farmi vedere, non mi va di dire bugie. Vabbè. Saluto là. Ciao amico mio, ciao. Ciao. Parenzo, tutte le sere lo chiamano nano e non dice un cazzo. Uè, nano di merda! Quel nano malefico. Beh, la canzone canzone mitica della Zanzara. E qui, caro Parenzo, ti ho portato per l'ultima puntata dell'anno 2017 un nano vero. Un nano vero. Il signor Fabio Zerba. Signor Fabio Zerba, qui in studio. Avessi portato Richard Benson. No, ma che Fabio Zerba è un nano che è, ti posso dire, Fabio, ti offendi se uno ti dice nano? Ormai no. L'hai detto. Beh, come ormai l'ho detto? Ma scusa. Mica mi offendo. Ma è appunto vero. Ma è uno straordinario personaggio che fa l'operaio in realtà. E poi sì, a tempo perso anche l'artista, ha fatto un sacco di cose. La cosa più bella però che hai fatto io qual è? Dalla voce non riesco a capire che è nano. E che cazzo c'entra? Perché dalla voce capisci questa che è nano. Ma scusa, no, spiega, scusa Fabio, radio. Spiegagli qualcosa. Come? Aspetta, aspetta. Da qui capisci. Com'è la radio? Aspetta, aspetta. In basso, sono sceso dalla sedia. Capisci? Adesso sì, però siccome questa è la radio, devo immaginarlo nano. Perché non riesce a vederlo, ma ti do la conferma io, è così. Cioè, è vero. Quanto sei alto, Fabio? Non molto. No, quanto sei alto? 1,31. Ha fatto un sacco di cose. La cosa più bella che ha fatto in televisione come artista? Elisa di Rivombrosa. Elisa di Rivombrosa, poi fa un sacco di spettacoli. Poi forse hai lavorato anche con Benincasa a Libero tu, allora. Al programma no. Libero no, con Mammucari. No. Ho lavorato con Luca e Paolo. Ho lavorato con Mammucari. Quello che ha lavorato con Mammucari è un mio carissimo amico, che se posso citarlo, si chiama Massimo. Sì, certo. Sì, quello era il nano alpino che ogni tanto si strusciava sulla gamba di Mammucari. No, ma la realtà è che io l'ho invitato per farmi raccontare una cosa. Ha 53 anni adesso, mi sembra. 53 anni, è sposato con una persona che non ha, diciamo, che non è affetta da nanismo. Si chiama acondroplasia. Acondroplasia. Però è brutto dire acondroplastico. Uno dice nanismo. Dipende. È brutto dirlo. Dipende. Tu fino a quando puoi vivere? Brutto... Per esempio, fino a che ti hanno detto? Per sé, come una persona. Ma che domanda è? Scusa, ma non... arriva un ospite. No, che non vado sotto una macchina. Ma hai una rudezza. No, ma nel senso. Scusa, quando no, muori. Ma nel senso. No, ma no, quando muori. Cioè, nel senso. Mi sto toccando, eh? Sì, no, si sta toccando. Cioè, il signor. È che faccio fatica perché faccio fatica a arrivare alla punta. No, ma nel senso che. Ma come fai a chiedere? Ma non lo so, ma sono ignorante da questo punto di vista. Cioè... Mi scusi, ma lei quanto vive? Insomma, fino a quando vive? Insomma, ma muore o no? Muore o no? No, diciamo Pratico, che questa non basta. È. Non è? Posso? Sì, vai. Non è. Una problematica essere, diciamo, di questa altezza e dire quanto vivi, cioè vivi normalmente. Normalmente, vabbè, ma. Ho conosciuto una persona che è mancata a 95 anni. Beh, dunque, tu speri di arrivare oltre, diciamo. Ma come chiunque, no? No, ma sì, certo, pensavo che la cosa adesso comportasse. Non vorrei anche... dire, ma il figlio di Dio non muore mai. Ah, il figlio di Dio non muore mai. Senti, ma io voglio capire una cosa. È vero, mi ha detto prima una cosa molto interessante. Cioè che lui è praticamente, non dico perseguitato, però ci sono moltissime donne che vogliono concupirlo, è vero o no? Addirittura. Sì. Solo per la curiosità. Solo sì. Per la curiosità. Cioè per la curiosità di andare con un nano? Non di andare, per vedere se... O per... sapere se è vero quello che si dice in giro. Sì, io però non ho mai sentito in giro cosa si dice. Vorrebbero andare con te. Cioè, sì. Quando tu fai gli spettacoli di intrattenimento, sì, nei locali, eccetera, non eccetera. Non tutte le sere, diciamo. Non tutte le sere, però quando li fai. In certe serate, diciamo, esempio, a tema. E per esempio, quando vai alla festa della donna, no? Nei locali perché così. Io faccio anche gli spogliarelli per la festa della donna. Ma ti spogli completamente, no? Se mi danno i soldi, sì. Cioè, se tu, per mostrare l'uccello, quanto ti devono dare? Si dice il peccato, ma non il peccatore. Ma l'hai fatto qualche volta? Due volte. Poi basta perché sono tornato a casa graffiato. Ma veramente? Sì, senza camicia. Ma senza questa niente. È pur sempre la radio della Confindustria, comunque. Il signor nano Fabio Zerba. Sono attaccato dalle donne perché i vertici della Confindustria che dicono: ma vi rendete conto, a Natale hanno invitato un nano. Vabbè, sì, abbiamo sentito di tutto. Nazisti, lavoro anche a Natale, se interessa, eh. Lavori anche a Natale? Sì, posso dire dove? No, adesso non esageriamo. Non lo so, In un locale. Fermi tutti, torniamo fra poco col signor Fabio Zerba. Io ribattezzerei a questo punto il nano della Zanzara. Si può dire che Parenzo il nano della Ma Zanzara? Mi chiamano De Curtis come nome d'arte. Il nano malefico. De Curtis per via dell'altezza, De Curtis. Niente, mi feci fa un pompelmo ed era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trance, David sta andando a trance, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trance, David sta andando a trance, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Efe Ball. Ah, e vabbè, vanno a trance, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento... State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Caro Cruciani, sono quasi le 8, sono all'aeroporto di Linate, ho l'aereo alle 10 e mia moglie mi scassa la minchia dalle 4:30, all'ansia dalle 4:30, sono venuto in aeroporto 2 ore prima, ma perché non legalizzare l'uxoricidio preventivo? Uno si sposa, il giorno dopo l'ammazza, dici perché? Preventivo. In modo tale che tutte le rotture di cazzo che vengono dopo uno non le deve più sopportare. Non posso. 2 ore prima. Meno male che ci siete voi, almeno il tempo vola. Il tempo vola. Oh, auguri, eh? Auguri a tutti. New York down, on the catwalk. I like to play it discreet. Vai Fabio, vai Fabio! Vai, scatenati, ma è vera questa... Io suonavo in un gruppo una volta. Fabio, il nano della zanzara. Allora, caro Fabio, ma è vera, Parenzo, vogliamo definire una volta per tutte questa cosa? Dimmi. Cioè, la dotazione dei nani, è vero o no questa leggenda? Il tuo quanto è lungo? Possiamo dirlo? Allora, l'hai adesso... misurato? Sì. No, però ho ricevuto degli applausi. Cioè? E niente, a nudo. A nudo sei stato applaudito. Sì. Ho capito. La questione della lunghezza è questa. La questione della lunghezza è questa. Attenzione, attenzione. Io lì sono perfettamente normale, virgola. Bisogna vedere per gli altri che cos'è la normalità, appunto. Questa è una bella cosa, è una bella risposta. Però nella sostanza, per andare al sodo, sì. Cioè, tu sei sopra i 15, perché là alla fine la questione. Sopra i 15? Certo. Sopra i 20? Appena sotto, vabbè, siamo sui 19, diciamo. Yes. Siamo sui 19. Beh, insomma, diciamo, vabbè, che a nudo cado davanti. Come diceva una volta, come disse una volta l'amico Paolo Ruffini, ho una bella fava, quando disse di avere una fava. Io di ho un 19. Orto. Un orto, come un orto, scusa, un orto è che ortaggio. Significa? Un orto di fava. Va bene, allora, fermi tutti, Danilo da Caserta, vai. Poi Alessandro, provincia di Palermo, recuperate altri ascoltatori che erano caduti. Danilo, ma ti rendi conto, hanno invitato un nano in studio. Danilo, vai, dimmi. Allora, ciao Giuseppe, buonasera. Io voglio soltanto intervenire per dire che tutti dovremmo aderire al tuo partito. Sì, questo liberi è molto buono, sì. Liberi e armati. Perché io sono un avvocato e mi trovo a difendere. L'altra sera si diceva, quando si vede un ladro che sta rubando, sì, chiamate la polizia, non sparate. Sì. È successo che la persona ha chiamato la polizia è intervenuta, c'è stato un inseguimento, la persona, sì, si è vista stretta in un vicolo, ha aggredito il poliziotto, è stato atterrato secondo le regole di ingaggio, bene, il poliziotto è processo. Io questo voglio dire, cioè, non solo... dobbiamo fare i processi per le persone che si difendono, ma anche quando intervengono i poliziotti dobbiamo fare processi a carico loro, se magari hanno atterrato il ragazzo che era stato beccato. Danilo, amico mio, tu fai l'avvocato, amico, eccetera. Quando c'è l'uso delle armi, per forza, però sei uno dei primi iscritti a Liberi Armati. Apriremo le sottoscrizioni, sì, a gennaio. Però ho elencato oggi, nell'ultima puntata dell'anno, alcuni punti fondamentali. Gli ultimi, no, beh, dimmeli, hai sentiti prima? Dici che vuoi dire al partito, dovresti averli sentiti prima. Scusa, amico mio, questo è fondamentale. Lui si è eccitato sulla roba delle armi e della difesa, e quindi in base a quello tu puoi aver detto qualunque cosa, sì, anche che hai come dire, avuto anche per lo scorreggiare libero, visto che rientra anche vedi, quello vedi, fra... non credo che sia nel programma, quello di avere delle flatulenze libere, non credo. No, non quello credo. Del programma che c'entra, questo non c'entra niente, dai. Dove andiamo? Andrea Vercelli, vai Andrea. Andrea, dimmi. Ciao Giuseppe. Dimmi, dimmi. Che gente? Liberi armati. Liberi armati, ragazzi, altro che liberi uguali, il presidente Grasso, la Boldrini, il nostro Nano che vota alle elezioni? Signor Nano, non arriva alle urne, porca vacca. Come non arriva alle urne? Però sono armato, sono ben armato. Non arriva nel senso che non riesci a votare. Non ci arriva al seggio. Mi prendono sempre per un bambino, mi tolgono via. Una vitaccia, non ho mai visto un film vietato ai 18. Alessandro. Che la difesa è sempre legittima. Eh? Vota Lega, almeno la difesa è sempre legittima. Chi? Stai parlando con me, no. Andrea, non ho capito. Certo, con te. Ma che c'entra la Lega? Questo è un movimento che non c'entra niente con i partiti attuali. Andrea, dai, su. No, nuovo. Ma nuovo adesso, è un'idea, dai, su. Non la prendere seriamente. Cioè, sì, bisogna prenderla seriamente, però non è che adesso vota Lega. Che vuol dire? Cioè, non vuol dire nulla. La difesa è sempre legittima, punto. Vabbè, in questo caso sì, sono d'accordo. E allora? Ecco, e qual è il problema? Non ho capito. Io sono d'accordo con la Lega su una cosa, per esempio non sono d'accordo sulla questione dei gay, io sono a favore del matrimonio gay e dell'adozione da parte dei gay. Per esempio, esistono nani gay? Sì. Non so, penso di sì. Non hai conosciuto i nani gay? Interessante questo, i nani gay, bellissimo. Vabbè, ma non è la questione del nano... Tu dici vivi, nani, sono persone come gli altri? È sempre una persona. Sì, esistono certo, persone di colore gay? Certo, certamente. Ma no, allora... certo, ma adesso non mi attaccare su questo, però no. È chiaro che è curioso, no? Un nostro, nano gay. Il nostro macchinista. Per esempio, tua moglie perché ti ha sposato? È interessante come cosa. Cioè, okay. Da che cosa è stata attratta? Da te come persona, ovviamente, no? Cioè, però c'è stato un elemento. Cioè, io devo fare la parte del cinico. Devo fare la parte del cinico, no? Non per perché non una per forza per. Per no, quello che siamo qui per parlare. No, ma certo, però deve essere stato alla fine l'elemento, sono una persona simpatica. No, io voglio dire, l'elemento del tuo non dico problema, insomma, nanismo, come l'hai chiamato prima? Acondroplasia. Ecco, quanto conta nel vostro rapporto? Come siete andati a risolverlo? Cioè non... come siamo andati a risolvere cosa? No, ma cioè, parla chiaro, guarda che no, mi ma siamo sì, ma qua, sto cercando di capire, cioè alla ma fine... insomma, ma gliela chiedi, ma è eccitata l'idea di andare a letto con un nano? Ecco, sì, no, ma quello sì, è stata attratta anche lei, come altre donne che mi hai detto, è stata attratta come da tutte questo... le persone che mi conoscono dopo un quarto d'ora non si dimenticano del fatto che sono nano, dillo, nano. Sono basso, bravo. Diversamente questo, alto, ecco. questa è interessante come cosa. Comunque è uno dei poche, delle poche persone che dice apertamente le donne mi molestano, questo è il punto. Certo, le donne mi molestano, anche gli uomini in realtà. Sì, ma solo per la curiosità, gli uomini, e le donne anche per la curiosità, ma diciamo, non matta, tutte comunque, non ma tutte. La gente è matta. Sì. Ma per fare una serata con lei, cioè ad esempio una serata di spogliarello, voglio dire, così, cioè, le serate che lei fa in giro sostanzialmente, no? Sì. E quanto bisogna sganciare? Lei ha il telefono del signor Cruciani? Sì. No, certo. Dico, mille euro a serata, così è, presta poco. Per capire, per avere anche una dimensione, no? Le rispondo, lo vuole il nano per fare lo spogliarello? Lo vuoi il nano? Sì. No, io faccio... No, sì, lo vuoi, dico lo vuoi, dico allora lo vuoi. Ma lo paghi. Io così... E allora ma lo io non voglio cioè il nano per fare lo spogliarello quanto costa il nano per fare lo spogliarello? È abbastanza, dai. 1000, 1500, 2000, 3000. Dai, dimmelo. No. No, ma perché non me lo vuoi dire, scusa? Perché pago le tasse. Ho capito che c'è paura della finanza, non no, ho capito. Assolutamente. Allora, pago tasse tutto. 3000 cachet per spogliarti, no, il nano meno, che si spoglia, il nano è una roba che di 7 minuti, non è che 1000. La millanta ci vuole, dai. Pressa poco, sì. Pressa poco la millanta. Una millanta. La 1000 euro ci vuole alla fine, 1000 euro. Comunque la cosa incredibile è che gli hanno offerto anche dei soldi per scopare, diciamo la verità. Certo. Vero? Ma certo, lo dici così come se fosse... La gente ti offre dei soldi, coppie, oppure donne. Sempre negato, sempre tornato indietro. Ah, sempre tornato indietro. Sì, perché la cosa mi scade. E tua moglie? Sta bene lì. No, dico, tua moglie cosa dice davanti al fatto? Una volta l'hanno fatto anche davanti a tua moglie, o sbaglio? L'hanno fatto, però non lo sapevano che era mia moglie. Io con tutta naturalezza gli ho detto, a me va bene, quanti posti letto ha in casa? E la tipa mi ha detto, perché? No, perché questa qua dietro è mia moglie e non penso di farla dormire in macchina, se non ti secca viene anche lei. E lei? Oh, scusa, ma io non sapevo. E mia moglie gli ha detto, guarda, per me basta che non fate tanto rumore, però i soldi me li dai a me, anticipati. È scappata. Quanto voleva pagare questa qua? 300. 300 euro? Sì. Ti hanno offerto 300 euro per scopare una e non ci sei andato? E lei, cioè, che è scappata? Se no ci saresti andato? No. Ma come no? Cioè, no. No, cioè non si fa tutto per i soldi, dici. Sai cos'è? Io ho 30 anni che faccio questo tipo di lavoro. Sì. E... cabarettista, l'artista, sì, eccetera. L'artista. Sì. Poi tu in realtà produci questa roba qui che mi ha portato. Mi ha portato delle spillatrici. Cioè fa delle spillatrici. No, delle imprenditore. Ma che imprenditore? Fa l'operaio in una fabbrica dove si producono un sacco di cose, tra cui delle spillatrici. La cosa incredibile. Delle spillatrici e anche la te la ricordi la coccoina? Ma come no? Ma la certo, colla bianca. L'abbiamo mutata tutti. Certo, quella è quel io lavoro lì. Che altre cose produce? La coccoina e le spille, poi altre cose che fate? Taglia leva punti, taglia carte, cancelleria in generale. Incredibile. Bucaiole. Allora, Giuseppe dalla provincia di Pordenone, vai. Pronto? Dimmi. Buonasera. Sì, ma è da Padova comunque. Buonasera. Vai, dimmi. Io volevo trovare una correlazione tra i negri e le carte di credito. Cioè in che senso? Spiegami. Cioè nel senso, ma nel video dove si vede il negro in treno che urla contro il controllore che ci dice nero. Ma ha buttato carta credito. Sì. Ma che carta di credito vuoi che abbia quello lì con le palangane? Ma tu che carta di credito hai tu? Se ti danno credito a te. Voglio sapere il nome, non mi interessa, ma ti danno credito? Ma chi è quella banca che ti dà credito? Chi è che di credito vuol dire anche fiducia? Chi è che dà fiducia a una persona come lei? Ma quello su cui io voglio fare, vorrei aveva fare una mattino, carta prepagata vuota, aveva una carta sì, prepagata vuota. Molti di loro, siccome fanno trasferimento di denaro, hanno le carte prepagate, appunto. Ma era vuota, però, questo è il punto. Con le palandrane colorate, che carte ci mette dentro? Quelle delle monetine che raccoglie, i soldi che raccoglie. Vabbè, adesso non è che tutti girano con le palandrane, adesso, non è che perché tutti lavora girano solo lui. Non è che tutti lavora. Quanti girano con le palandrane colorate, dai, tu. Sì, cioè. Ma quello lì aveva la palandrana colorata. Vabbè, e aveva aspetta, e per quello lì è stato licenziato un capotreno che tra l'altro ha raccontato una versione dei fatti credibilissima. No, ma infatti secondo me è una follia licenziarlo. Ma certo che è una follia licenziarlo, anzi è quasi imbarazzante. Cioè questo qua andrà in giro a dire... Ma quindi si può dire tranquillamente negro di merda. Ma no, ma lo querelasse, ma se pensa che sia un'offesa, lo querelasse e basta, no? Lo ha fatto l'azienda che gestisce il trasporto. Male, molto male. Non l'ha fatto la Cinta, l'ha fatto Grasso, non l'ha fatto la Boldrini. Male, molto male. Che gestisce il trasporto. Male, molto male. Ritenendo questa cosa lesiva. Male, molto male. Dell'azienda. Ma con liberi armati porremo riparo a questa situazione. Cioè, questo è il punto. Con liberi e armati. Risolveremo anche questo. Alessandro dalla provincia di Palermo, vai. Ciao Luciani, ciao. Dimmi. Io volevo solo dire una cosa. Il tuo, diciamo, partito, la tua idea è, secondo me, è una giusta cosa. Perché basta ipocrisia qua in Italia. Perché penso che tutti quanti vogliamo la prostituzione legalizzata invece di avere ancora nel 2017 chi ancora deve andare a sanzionare. No, la legalizziamo, la mettiamo bella sistemata. Ma cosa? Chi ci vuole andare ci va a prostitute, no? Ma non c'è dubbio. Penso che il problema principale d'Italia. No, ma ragazzi, la cosa è questa. Vi elenco i 4-5 punti fondamentali: legalizzazione della prostituzione, legalizzazione delle droghe leggere, armi da fuoco, sì, diffonderle il più possibile, diciamo così. Legittima difesa dentro casa, tutto quello che succede, non devono manco le indagini, in due giorni prosciolto anche se ammazzi un ladro. Anzi, soprattutto se lo ammazzi. Petizione popolare per lo spostamento del Vaticano in Francia, come suggerito la Luttwak, Viagra e preservativi di Stato, più felicità e meno malattie. E togliere qualsiasi vitalizio politico, qualsiasi finanziamento a partiti e religioni, togliere le quote rosa dal Parlamento, stop all'immigrazione clandestina, blocco navale. E infine, se volete risolvere la situazione di Napoli, che è sempre di attualità, il Mossad, che può essere utilizzato, chiedere la collaborazione del Mossad, che in 5 giorni Napoli tutto risolto. Com'è il rapporto sessuale con tua moglie, signor Nano? Ottimo? Normale. Sì, certo. Cioè, dopo tanti anni di matrimonio ancora trombate? Spacco le noci. Spacchi le noci addirittura. Cioè, ma le noci, la noce di tua moglie in questo caso. Cioè. No, a casa c'ho uno schiaccianoci. No, ma ho capito, ma dopo tanti anni, da quanti anni che siete sposati? 11. Da 11, dopo 11 anni, bravo, bravo. 17 che ci conosciamo. 17 che, tradimenti zero? Zero. Zero tradimenti, yes. Anche se hai avuto tante possibilità, come abbiamo sentito. Naturalmente, lei pure ha avuto possibilità? Certo. O no? Beh, ci vogliamo bene. Vi volete bene? Tradimenti zero, fedeltà, zero, zero, zero. Fedeltà assoluta. Certo. Ritmo di sessuale? Normale. Cioè, normale quanto? A settimana? Mi chiamano Pestello. Cioè, a settimana quanto? Due a settimana, due alla settimana. Poi c'ho 53, oh, lavoro. Beh, allora insomma si può. Lavoro, sì, lavora sì. Anche lei. Ragazzi, questo è un bel messaggio. Torniamo l'8 gennaio 2018. Forse, caro Parenzo. Forse. Se mi invitano, sì. Torno anch'io più alto. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Buon Natale a tutti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Direttore, lo faccia tacere.